million. In my heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hun. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hun. So I guess I finally found my billion. It feels like I've been lonely when you're gone. So dance with me all night long and make my heart beating like I'm a one in a million. Vi ricordo che questa è Slalom, la trasmissione che seguite ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 10 alle 12 in diretta su CRM Happy Radio, la vostra radio. Sera avete avuto modo di guardare Le Iene oppure avete visto il servizio pubblico di Santoro con Marco Travaglia. Di Le Iene hanno riproposto, quantomeno hanno continuato il filone parlando dell'indagine che avevamo fatto la settimana prima proprio a proposito di quelle fustelle che venivano tolte dai farmaci in quella farmacia del nord. E poi parlano male del sud. Bring the beat in. We'll be right back. Slalom. Flashback. Quando ti senti sola, piccola e più indifesa, con i pensieri in gola, il cuore che ti pesa, tu sfogati e dimmi tutto, vuota le tue soffitte, tirami giù dal letto, anche se è mezzanotte. Quando ti senti sola, mi sento solo anch'io, lascia il tuo nido e vola, piccolo amore mio. Quando ti senti sola, sola davanti a tutti, dentro quell'armatura, piangi con gli occhi asciutti. Con lacrime senza sale, per non soffrire ancora, forse fa meno male, ma ti ritrovi sola. Libera prigioniera, salvati insieme a me. E quando ti senti sola, io sono come te. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Faccio così, grido di più, voglio che tu da lassù mi ascolti, e chi se ne frega se gli altri lo sanno, non mi fai più paura, non ho paura, no. La finta hand, stack in the smoke, suffering crap. Jazz made me tough and never more with your shots. The trouble I rise above all expectations. Forget rip, he never been kicked when I wanted to get pins. Hustle to be, I'm exactly what my next is. Then I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, then I said nothing at all. After all, you were never kin to me. Family is something that you never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing

yes, girl. Del film Le Infedeli, Le Infideles, scandalizza il mondo del cinema internazionale. Come mai? Ma guardando l'immagine che noi abbiamo trovato su internet, il film francese infatti ci propone una locandina con un uomo in piedi che sta parlando al telefono cellulare mentre una donna inginocchiata davanti a lui intenta praticare. A voi la fantasia. Ed è subito polemica sul giornale francese, ma anche su Twitter si levano voci contro un'immagine degradante per tutte le donne, banale per un film che parla, fra le altre cose, di una infedeltà maschile. Un po' troppo forte, eh? Un po' di silenzio. Ci è venuto a trovare telefonicamente il nostro caro amico Giulio Gianombardo. Ciao Giulio e ben trovato, e grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Ah, grazie a te, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, Francesco. Come stai innanzitutto? Ma insomma, diciamo che l'inverno ha colpito anche me, per cui un po' raffreddato, comunque tutto bene per il resto. Perfetto. Allora, che consigli ci diamo per questo fine settimana? Allora, noi con Sicilia Weekend, che lo ricordiamo, è il nostro settimanale che potete ogni settimana scaricare gratuitamente dal nostro sito www.siciliaweekend.info, abbiamo voluto dedicare la nostra prima pagina ad alcuni appuntamenti mordi e fuggi legati alle festività patronali, soprattutto ovviamente a Catania, dove c'è la festa di Sant'Agata. E a Militello Rosmarino, dove c'è la festa di San Biagio. Però apriamo con la sagra del mandorlo in fiore di Agrigento, il nostro santo protettore San Biagio, perché è il protettore della gola, anche tu comunque parlando esatto, tanto. Esatto. Apriamo con la sagra del mandorlo in fiore di Agrigento, che si inaugura proprio oggi. È la 67esima edizione di questa importante kermesse del folklore, e la manifestazione si aprirà proprio con l'accensione del tripode il tripode dell'amicizia davanti al Tempio della Concordia, e si concluderà poi alla fine con l'attribuzione del Tempio d'Oro, il trofeo che raffigura il Tempio di Castore e Polluce, vinto dal gruppo folcloristico più meritevole, appunto sarà premiato alla fine della manifestazione. Quindi durante il fine settimana, se il tempo ce lo consentirà, potremmo fare un salto da Agrigento. Incrociamo le dita veramente. Parlavamo di Catania. Da oggi fino al 5 febbraio è tutto pronto a Catania, proprio per i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, che è la patrona della città, come tutti sappiamo. È molto più sentita comunque della nostra Santa Rosalia, vero? Assolutamente, assolutamente sì. Potrete assistere alla classica processione dei fedeli con in grosso il tradizionale sacco, un camice votivo di tela bianca. Ho avuto modo lungo, di vederlo un paio di anni. Lungo fino alla caviglia. Anche a Militello Rosmarino si festeggia San Biagio, sarete accolti da architetture di infiorescenze accese ad illuminare il percorso della rama, ovvero di un alberello di alloro che viene portato in processione per le vie del paese fino a giungere nel luogo stabilito della festa, dove verrà dato fuoco proprio al ramo e alle infiorescenze, e tra gli applausi e le grida di gioia, insomma, cominceranno proprio i veri e propri festeggiamenti in onore di San Biagio, questo appunto per questo weekend a Militello Rosmarino. Chiudiamo con un appuntamento di natura che abbiamo voluto dedicare a in realtà due appuntamenti organizzati dal CAI, il Club Alpino Italiano della sezione di Palermo. Hanno organizzato due belle escursioni, tutte per il 5 febbraio, una un po' più leggera. Qui si salirà a Pizzo della Trigna, che è una montagna all'interno della riserva naturale di appunto Pizzo Trigna, Pizzo Cane, Grotta Mazzamuto, tra Bia e Altavilla Milicia, nel provincia di Palermo. E poi si potrà fare una vera e propria traversata dei Monti di Calamigna, che si trovano tutti all'interno della riserva. È un'area molto molto bella, tra l'altro poco conosciuta, una riserva poco conosciuta nel nostro territorio, che gli amici del CAI potranno farci scoprire questo weekend. Perfetto. Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Esatto. Ok, finito. E per quanto riguarda il concorso? No, il concorso abbiamo chiuso la mostra che come, si è inaugurata. È andata? È andata molto bene, il bilancio più che positivo, abbiamo avuto tantissime visite, abbiamo avuto anche una buona visibilità sui giornali, sulla carta stampata. Devo dire che l'iniziativa ha avuto una sua eco anche in altre città. La cosa ci fa molto piacere, soprattutto per i nostri lettori che ci hanno inviato le foto scattate con Instamatic, che è l'applicazione di iPhone che riproduce le fotografie come le vecchie Polaroid. La mostra, lo ricordiamo, si chiamava Sicilia Matic. Perfetto. Di queste iniziative fatene tante, perché se c'è un ritorno e soprattutto un coinvolgimento è una cosa importante per noi tutti. Certo, okay. Stiamo a lavoro anche per nuove iniziative di cui poi vi parleremo. Va bene, Giulio, io ti ringrazio di averci dato questi giusti consigli e spero di sentirci anche venerdì prossimo, un po' meglio. Assolutamente, a venerdì allora. Ciao Giulio, in bocca al lupo. A presto, grazie. Ciao, a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Ciao. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Thank you. used to know. Dichiarazione infelice il nostro Mario Monti l'aveva fatto un paio di giorni fa, quando si è parlato del mercato del lavoro che è cambiato e che quindi ha detto: sveglia ragazzi, sveglia giovani, abituatevi a cambiare l'idea di non avere più il posto fisso. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Arriva una scoperta sensazionale per il mondo dell'arte. Nel magazzino del Museo del Prado è stata infatti ritrovata una copia gemella della Gioconda di Leonardo da Vinci, dipinta in contemporanea al capolavoro del maestro da uno dei suoi allievi prediletti. Molto probabilmente, scrive l'articolo, potrebbe essere stato o Andrea Salai o Francesco Melzi. Facciamo gli auguri a Biagio Antonacci, oggi infatti è San Biagio. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello. Voglio

spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, più distante. Ora figli dell'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina. E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha. In questi giorni, per motivi di lavoro, sono stato nel Messinese, al rientro ho ascoltato ben volentieri la trasmissione di Robin Antonia, che con il quale partecipa in maniera molto attiva e anche simpatica il nostro caro amico Rambo, che saluto, perché veramente si riescono a scoprire dei personaggi così, con semplicità. Come del resto, con semplicità abbiamo messo in campo il nostro secondo corso di formazione radiofonica, quindi chi vuole diventare uno speaker, un DJ, un animatore, lo può fare inviando praticamente qui in sede il suo curriculum a formazione@crmhappyradio.it con tutte le indicazioni. Poi la radio sicuramente farà la propria selezione e, cosa molto importante, il corso è completamente gratuito. Quindi salutiamo Rambo, che è in ascolto. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Oggi è il 3 di febbraio, dobbiamo fare gli auguri agli amici nostri che ci seguono anche tramite il nostro stream, ma soprattutto gli amici di Facebook. Vincent Serio è il suo compleanno, come Leonardo Bruno, Giovanni Vardahei, Giuseppe Glorioso. Auguri da parte mia e da tutto lo staff di CRM. Una cosa importante è che è stata costituita il distretto Pesca, Turismo e Cultura del Mare, ne fanno parte i comuni di Augusta, Balestrate, Cefalù, Isola delle Femmine, Pachino, Petrosino, Pozzallo, Santa Croce, Camarina, Terresini e così via. Buono, una cosa importante. Continuiamo con la musica, vi ricordo che questa è Slalom, la trasmissione potete seguire ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 10 alle 12 in diretta su CRM oppure a partire dalle 2 di notte, quindi un saluto particolare ai nottambuli. You've got something for me, something you call love, but confess you've been messing where you shouldn't have been messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sento questa musica, non mi viene altro che ricordare Rock Revolution, l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21 in diretta su CRM con i nostri cari e bravi amici, i fratelli Brancato, Simone e Filippo. Questa sì che è bella. Cilipoti, non bastava uno solo ma ci vuole anche il sosia, infatti l'onorevole Cilipoti, che ha troppi impegni, niente più scorta, ha pensato bene di mandare il suo sosia in un convegno. Pick up the pieces and build a Lego house, if things go wrong we can knock it down. My three words have two meanings, there's one thing on my mind, it's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind, I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and